Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io credo che questa sia una richiesta che deve essere comunque vagliata, considerata e valutata. Quindi sotto questo profilo io non ho elementi ora da fornire su questa richiesta. Vedremo nei prossimi giorni. E a cosa si riferisce, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli alla richiesta da parte delle opposizioni oggi e anche del presidente della regione Lombardia Fontana, però anche dal presidente del Veneto Zaia, tutti della Lega, di rendere le misure ancora più restrittive? Ieri vi ho fatto ascoltare in diretta, come sapete, il presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa, era stata annunciata, poi è arrivata proprio durante la diretta di Effetto Notte, e aveva annunciato appunto che la zona rossa, o meglio la zona di sicurezza come adesso si chiama, è stata estesa a tutta l'Italia con tutte le misure restrittive. Però, come vi dicevo, l'opposizione oggi ha chiesto dei provvedimenti più drastici, e così il presidente della regione Fontana, della regione Lombardia, che dice: qualcuno forse non ha capito la gravità della situazione, qui è meglio chiudere tutto, fare dei sacrifici e poi uscirne tutti insieme. In realtà il governo in un primo momento ha risposto di no, poi sembra, anche insieme proprio a Borrelli, che a sua volta della Protezione Civile stia valutando il governo. Entro le prossime ore dovranno prendere una decisione, così anche ha detto per l'appunto il commissario straordinario all'emergenza che avete appena sentito. Quindi altra puntata naturalmente molto concentrata sull'argomento che domina purtroppo tutte le notizie in Italia e in buona parte del mondo. E per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Poi ci collegheremo, fra le altre cose, anche con alcuni stati europei e anche con gli Stati Uniti, per capire che cosa succede lì con un'emergenza sanitaria come questa e col sistema sanitario che ha, o meglio che non hanno, negli Stati Uniti, che cosa può succedere. Ma Trump oggi ha rassicurato nuovamente, ha detto: state calmi che la malattia passerà. Epidemia di coronavirus, contagi in Italia quota 10.000, la Lombardia insieme alle opposizioni chiede misure più rigide, chiudete tutto. Il governo e la Protezione Civile valuteranno nelle prossime ore. Le reazioni fuori dall'Italia: la Slovenia chiude la frontiera col nostro paese, l'Austria prepara misure, il Brennero al Brennero, Air France sospende i voli da e per l'Italia sino al 3 aprile, lo stesso fa Air Canada, ma sino al 1 maggio. Intanto il presidente americano Trump rassicura gli americani di: state calmi, la malattia passerà. Genova, il ponte prende forma, sollevata la campata da 100 metri, un'operazione complessa terminata con successo nella notte. Calcio, i calciatori chiedono lo stop anche agli allenamenti. Partiamo quindi dagli aggiornamenti sull'epidemia appunto di coronavirus in Italia. Vi ricordo come sempre pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. E dicevo, cominciamo come sempre con i dati aggiornati quotidianamente dalla Protezione Civile nella persona che avete sentito del commissario Angelo Borrelli. Sono 8.514 i malati in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese quindi vittime e guariti, ha superato i 10.000, sono 10.149 nel nostro paese. Le vittime sono complessivamente 631, rispetto a ieri sono 168 in più. Le 168 nuove vittime, ha precisato Borrelli, non sono decessi da coronavirus, ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus. E sono 1.004 nel frattempo le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 280 più di ieri. Nel frattempo, dopo le misure restrittive annunciate appunto ieri dal Presidente del Consiglio Conte, entrate in vigore oggi per tutta l'Italia, l'opposizione e il Presidente della Lombardia Fontana chiedono provvedimenti ancora più drastici. Prima, quella è la lettera dei sindaci a cui ho fatto riferimento, il secondo è la richiesta che è stata presentata da tutti i tre sindacati principali, in cui dichiarano esplicitamente di valutare la possibilità di misure più rigorose, e in fondo anche la valutazione di una serie di categorie imprenditoriali, le quali si sono dichiarate favorevoli a stringere le misure, ad arrivare anche ad una sospensione temporanea di ogni tipo di attività. Questo quindi il presidente della regione Lombardia Fontana. Allora sentiamo qual è finora la risposta del governo. Dopo la stretta decisa ieri, il governo non esclude misure più rigorose per contrastare la diffusione del coronavirus. L'indicazione arriva dopo la richiesta avanzata dal governatore della Lombardia Fontana e poi rilanciata dai leader del centrodestra che in un incontro con il premier Conte hanno chiesto di chiudere per 15 giorni tutte le attività, escluse quelle di pubblica utilità. Così il segretario della Lega Salvini. Chiudere tutto adesso, salvando i settori strategici dal sanitario alle forze dell'ordine all'alimentare, per ripartire sani tutti insieme fra poco, la risposta è stata no. E quindi c'è ancora totale incertezza. È il momento delle scelte forti, coerenti, drastiche, che tutti capiscano. Nel pomeriggio Conte ha partecipato in videoconferenza ad una riunione sull'emergenza coronavirus dei 27 capi di Stato e di Governo europei. Il Premier ha anche avuto un colloquio telefonico con la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, la quale ha assicurato che l'Europa è pronta a dare un sostegno aggiuntivo all'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco torniamo su questi temi, su questi aspetti, quindi la politica e anche le decisioni dell'Europa. E ora la cronaca di un'Italia chiusa per coronavirus. Traffico dimezzato, molti negozi e bar chiusi o semivuoti. Milano detta la linea per il decreto resto a casa. Molte le saracinesche abbassate, orari ridotti per le grandi catene da H&M a Zara e per le vetrine del lusso. Nel quadrilatero Armani ha deciso di chiudere negozi, ristoranti e hotel. Chiuso in galleria il Camparino, simbolo dell'aperitivo milanese. Molti ristoranti, chiusi dalle 18 come i bar, si stanno concentrando sulle consegne a domicilio. Strade svuotate a Roma, da Colosseo a Campo dei Fiori, chiuse la piazza e la Basilica di San Pietro. Chiusa la maggior parte dei negozi a Bergamo, come chiesto dal sindaco Giorgio Gori, chiuse anche le due funicolari cittadine. Silenziosa a Genova, la centralissima via 20 Settembre, code lungo i marciapiedi davanti agli uffici postali nel rispetto della misura del metro di distanza. Code da Torino a Napoli anche davanti ai supermercati, nonostante l'appello a non rifornirsi inutilmente. Nel capoluogo campano si sono registrate attese di quasi un'ora, ma strade tutt'altro che deserte intorno a Piazza Municipio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, e ieri devo dire che diversi ascoltatori e ascoltatrici, dopo aver fatto sentire qui a effetto note il Presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa che annunciava appunto le misure restrittive per tutta Italia, molti chiedevano ma allora non posso andare neanche a correre al parco? Io ho risposto ma veramente io vado a correre al parco, a parte che a 4 minuti da casa mia, ma siccome se è un parco vero siete a chilometri di distanza dalle altre persone, se andate da soli, la cosa si può fare, ci si può mantenere in forma all'aperto e con molto spazio intorno. Sentiamo questa scheda che chiarisce. È possibile fare una corsa all'aperto, un giro in bici, una passeggiata per tenersi in forma? E se sì, quanto ci si può allontanare? Sono interrogativi molto frequenti in queste ore. Mentre si attendono chiarimenti, mettiamo qualche punto fermo. Sport e attività motorie all'aperto sono consentite purché sia rispettata la distanza interpersonale di un metro, si legge nel DPCM. Una deroga dunque al divieto di circolazione, se non per comprovate esigenze lavorative, mediche, di salute o di rientro presso il proprio domicilio. Ma niente sport di gruppo e molto buon senso, soprattutto per la bici. L'avvocato Gianluca Santilli, presidente dell'Osservatorio sulla Bike Economy. Diciamo che per la bici c'è un fattore che tenderebbe a limitarne o comunque a suggerirne il limite di utilizzo in più, che è quello della pericolosità. Se io cado in bici c'è il rischio che debba chiamare il 118, che debba essere ricoverato, e di questi tempi diciamo che non è esattamente questa la cosa più logica da fare. Insomma, per chi si vuole allenare in bici, meglio il rulli in casa, come stanno consigliando in queste ore molte società sportive. Via libera invece ad una passeggiata in bici o a piedi o a una corsa, ma sempre nei dintorni di casa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Bene, dovremmo aver chiarito in questo modo. Adesso parliamo invece delle reazioni all'estero. La Slovenia annuncia la chiusura della frontiera con l'Italia per l'emergenza coronavirus. La mossa di Lubiana segue la decisione dell'Austria. Si moltiplicano i paesi che impongono restrizioni da e per l'Italia. Blocco totale ai collegamenti passeggeri deciso da Malta, Albania, Serbia e Libano. Stop ai voli diretti da parte di Spagna e Marocco, mentre la Slovenia ha annunciato il blocco totale delle frontiere con l'Italia. L'Austria ha introdotto controlli sanitari ai confini e ha annunciato il blocco dei voli e dei treni a partire dall'11 marzo e si teme il blocco totale anche del valico stradale del Brennero. Stop ai collegamenti con l'Italia anche da parte di British Airways, Ryanair e EasyJet, con il traffico sugli scali del nord già crollato del 70% e quello su Roma-Fiumicino dimezzato. Intanto in Cina i malati sono scesi a 17.000 su 80.000 contagi e la stampa parla di vittoria vicina, mentre nel resto del mondo i positivi sono raddoppiati in pochi giorni a 40.000. La Corea del Sud e il Giappone riescono comunque a bloccare il contagio, mentre forti aumenti si registrano oltre che in Italia, in Spagna 1.650 contagi e in misura minore in Francia 1.600 e Germania 1.281. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la Germania, tra l'altro, sembra che la cancelliera Merkel abbia detto che c'è il rischio che il 60-80% della popolazione tedesca venga contagiata. Poi ci collegheremo direttamente con la Germania. Aggiungo che, a parte alcune altre compagnie che hanno bloccato i voli da e per l'Italia, oggi lo ha fatto anche Air France, ferma i voli per l'Italia fino al 3 aprile, e Air Canada ha deciso a sua volta di sospenderli, ma fino al 1 maggio, tutti i voli da e per l'Italia. Nel frattempo si apprende del primo caso di coronavirus in Repubblica Democratica del Congo per quanto riguarda l'Africa, e poi dagli Stati Uniti il presidente americano Trump torna a rassicurare gli americani, dice state calmi, la malattia passerà. Poi ci collegheremo con Francia, Germania, Stati Uniti. E tra l'altro è da considerare anche la situazione difficilissima di chi è gravemente malato e si trova appunto in questa situazione, in questa emergenza lunare. Per esempio c'è un blogger, Andrea Spinelli, malato da anni di cancro al pancreas, che dice: essere malati di cancro al tempo del Covid-19 è più difficile di sempre, questo è il suo messaggio, dalle mascherine che non si trovano al rischio di non avere posto in terapia intensiva. Quindi, dice, ve lo chiedo con il cuore, cercate di non entrare a contatto con le persone se non necessario per lavoro o per altre cose indispensabili. Per cambiare completamente argomento, ma è una questione che ieri si è scatenata, diciamo, un po' con il pretesto del coronavirus, sul fronte delle carceri è stato annunciato l'invio di mascherine e tende per i controlli sanitari, ma le rivolte non sono ancora finite. Altre vittime a Rieti e a Foggia, si cercano ancora 11 detenuti evasi. Sulle proteste riferirà domani in aula il ministro della Giustizia. Il giorno dopo, anche su questo fronte, il numero delle vittime si allunga. Il giorno dopo le rivolte arriva dal carcere di Rieti la notizia di altri 3 detenuti morti per sospetta overdose di farmaci, come i primi 8 di Modena dopo l'assalto all'infermeria. Il mondo delle carceri è dunque ancora in subbuglio, da Venezia a Siracusa, da Aversa a Prato a Foggia, dove è caccia agli ultimi evasi durante i disordini. Tra loro anche un omicida e 3 affiliati alla mafia del Gargano. Il giorno dopo le devastazioni è ancora più chiaro come le restrizioni introdotte per evitare il contagio siano state il detonatore di una situazione già incandescente per il sovraffollamento. Così a Milano i magistrati, dopo un incontro nel carcere di San Vittore, intensificheranno le collaborazioni con i SERT per alleggerire le celle dei tantissimi tossicodipendenti. In tutta Italia sono 22.000 su 60.000 detenuti, e questa, insieme a concessioni per chi è a fine pena e a più accesso a misure alternative, è una delle richieste rivolte al guardasigilli chiamato a riferire in aula. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Genova. È terminato con successo alle prime luci dell'alba il sollevamento della campata da 100 metri del nuovo ponte di Genova, che scavalca il torrente Polcevera e che sostituisce la parte di impalcato crollata il 14 agosto 2018. Le operazioni di sollevamento erano iniziate nel tardo pomeriggio di ieri, presto ci sarà poi l'innalzamento della campata sopra la ferrovia. All'estero, Israele, il Tribunale di Gerusalemme ha respinto la richiesta di Benjamin Netanyahu di spostare di 45 giorni il processo a suo carico, il cui inizio è previsto il 17 marzo prossimo. La difesa del primo ministro aveva motivato la mossa col fatto che non avesse ancora potuto consultare le prove a carico e che questo avrebbe richiesto più tempo. Il processo quindi comincerà come previsto. Il primo ministro è accusato di corruzione, frode e abuso di potere. E adesso di nuovo in Italia. I viaggi di Radio 24. Seconda puntata del nostro viaggio nelle scuole che non si fermano. All'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio, in provincia di Varese, il coronavirus non ha fatto perdere un'ora di lezione. Attivate le lezioni a distanza in classi virtuali, che qui sono già una pratica abituale, ci racconta la dirigente scolastica Amanda Ferrario, intervistata da Maria Piera Ceci. La scuola comincia alle 8 e finisce alle 5 del pomeriggio. già dal primo giorno in cui c'è stata la sospensione delle attività. Gli studenti lavorano in classe, lavorano tra di loro, lavorano in gruppo, lavorano col docente e poi ovviamente hanno compiti e lezioni come se fosse una lezione tradizionale fatta a scuola. In questi giorni stiamo anche cercando di lavorare per la valutazione, perché dobbiamo valutare anche il lavoro che viene fatto in questo periodo. Quindi una valutazione che va avanti, ma una didattica vera e propria che va avanti, sì. Perché altre scuole invece hanno detto la didattica in realtà si ferma perché non tutti riescono a collegarsi. Voi questo problema non lo avete? No, noi questo problema non l'abbiamo. I nostri studenti lavorano tutti col tablet o col notebook anche a scuola, per cui hanno tutti un dispositivo. Se non ce l'hanno loro quando arrivano a scuola, la scuola glielo dà incomodato d'uso per tutta la durata del ciclo scolastico. Gli insegnanti sono tutti pronti a questo modo di lavorare? Non potete scegliere gli insegnanti, voi dirigenti scolastici, quelli che arrivano sono tutti in grado di operare in tal modo? Il tutto è una scuola d'avanguardia, una scuola che comunque recepisce anche il cambiamento del mondo che ci circonda. Lavoriamo molto con le imprese, col mondo del lavoro. Io le faccio un esempio: economia aziendale non possiamo farla a mano con la partita doppia, ancora come si faceva una volta. Utilizziamo software di ultima generazione. Quindi per i nostri docenti non è fondamentale, è obbligatoria la formazione, anche solo moralmente, la facciamo sempre costantemente. È vero, non si possono scegliere i docenti, però c'è il controaltare. In una scuola che chiede tanto e che poi dà anche molto in termini di soddisfazione, si sceglie di venire in questa scuola se si è altamente motivati. Non si resiste a lavorare qui se si pensa di fare le 18 ore e andare a casa. Bene, adesso parliamo di sport. Fermate anche gli allenamenti con lo stop del campionato. Questa è la richiesta avanzata dai calciatori tramite l'Associazione Italiana Calciatori, quindi il sindacato dei calciatori. Ne parleremo poi. Adesso invece, per chiudere, musica. I'm the bad guy. Duh. Bad Guy di Billie Eilish, il singolo bestseller del 2019, lo ha annunciato la IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo. Quinto singolo tratto dal primo album, When We Fall Asleep, Here Do We Go. Bad Guy è stata un instant hit, immediatamente, è una canzone che è andata sulla vetta delle classifiche in più di 15 paesi di tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Australia, Canada, Messico. La canzone, che è stata insignita del Record of Year and Song of Year alla 62esima cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, quindi gli Oscar della musica, lo scorso gennaio, rendendo Billie Eilish la più giovane artista a vincere in quest'ultima categoria, è diventata nel 2019 la seconda canzone più ascoltata su Spotify e la più cercata su Shazam. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Sentiamo tra poco. One Express. One Express, il pallet Express. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ormai dominate quasi completamente da questa epidemia di coronavirus che sta tenendo in ostaggio gran parte del mondo e anche molto noi in Italia. Roberta Giordano sempre con voi, avete sentito la sintesi della giornata, adesso cominciamo ad affrontare i vari temi, ovviamente sempre in particolare legati a questa emergenza. Fra l'altro, è notizia di pochi istanti fa, a proposito del coronavirus, oggi zero contagi a Codogno, è la prima volta da 3 settimane a questa parte, cioè da qua quando è partita l'emergenza coronavirus in Italia, dal paese che suo malgrado è diventato simbolo, Codogno nel basso, nell'Odigiano, insomma, insieme ad altri comuni. Quindi questa è una buona notizia. Ieri vi avevo dato la buona notizia che alla San Matteo, l'ospedale San Matteo di Pavia, sta meglio il paziente numero 1, il 38enne podista. Ne abbiamo parlato col responsabile del reparto di terapia intensiva proprio ieri, questa è buona notizia. E poi un ascoltatore mi avvisa, dice: ultima notizia da Repubblica, virus italiano autonomo circolava già da dicembre. In effetti c'è questa notizia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, questa notizia riportata, nessun caso dell'epidemia di coronavirus che si sta diffondendo in Italia ha a che fare direttamente con la Cina, l'avrebbe detto appunto l'Istituto Superiore di Sanità. I 3 malati, vi ricordate, 2 turisti cinesi e un italiano rientrato da Wuhan, che si sono infettati in quel paese, sono infatti stati isolati subito e non hanno trasmesso a nessuno la malattia. C'è un'ulteriore conferma del fatto che il Covid-19 circolava già da tempo in Italia quando è esploso, e sono cose che man mano naturalmente si capiranno volta per volta. Adesso invece ci occupiamo di, mentre qualcun altro sta dicendo allora ho capito, adesso posso andare a correre, sì lo ripeto, all'aria aperta, lontano dalle persone, a dovuta distanza, purtroppo dobbiamo diventare tra virgolette un po' asociali in questo periodo, ma ci riprenderemo. Sull'epidemia appunto di coronavirus, le decisioni del governo le avete sentite ieri nella puntata di Effetto Notte, vi ho fatto sentire perché era arrivata proprio in quel momento l'annunciata conferenza stampa del Presidente del Consiglio che ha illustrato queste ulteriori misure drastiche che hanno allargato la cosiddetta zona rossa che prima appunto era legata alla zona dell'Odigiano e a Vo' Euganeo in Veneto, allargata praticamente, e poi la Lombardia più recentemente, allargata a tutta l'Italia. Adesso si chiama zona di sicurezza sotto la quale c'è appunto tutto il nostro paese e con le misure che avete sentito poi ieri in diretta, nel senso meno spostamenti possibili, state tutti a casa, evitiamo tutti i contatti che si possono avere e anche di uscire se non ci sono le necessità assolute di lavoro oppure sanitarie. Bene, l'ha illustrato queste misure, le sentiamo proprio in sintesi in alcuni due passaggi. In due passaggi. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità nell'adottare queste misure per tutta la penisola, ma sono costretto a intervenire in modo ancor più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili. Quindi ha illustrato queste misure ed è sembrato che almeno fino a ieri per un certo periodo, no? Dopo i primi attacchi dell'opposizione al governo nelle settimane scorse di Salvini che prima voleva bloccare l'accordo di Schengen e che diceva che l'Italia, che il governo italiano era stato incapace, così come anche appunto parte dell'opposizione, poi dopo invece aveva detto che il governo aveva preso misure troppo stringenti che quindi potevano penalizzare eccessivamente l'economia italiana, oggi invece le opposizioni tornano di nuovo a farsi sentire e a chiedere delle misure più rigorose per quanto riguarda l'Italia, ma in particolare la Lombardia, così come anche il presidente della regione Fontana. Dovremmo averlo anche questo passaggio di Fontana che oggi ha parlato, in parte l'abbiamo fatto sentire anche prima nella sintesi della giornata, che dice abbiamo chiesto al governo delle misure più forti perché c'è il rischio che qualcuno non capisca fino in fondo la gravità della situazione. Noi abbiamo insistito per che il governo valutasse ancora una volta i dati che gli abbiamo mandato, che costantemente continuiamo ad inviargli, ma che valutassero anche tre altri aspetti che credo siano fondamentali. Il primo è la lettera dei sindaci a cui ho fatto riferimento, il secondo è la richiesta che è stata presentata da tutti i tre sindacati principali in cui dichiarano esplicitamente di valutare la possibilità di misure più rigorose e in fondo anche la valutazione di una serie di categorie imprenditoriali favorevoli a stringere le misure ed arrivare anche ad una sospensione temporanea di ogni tipo di attività. E saluto subito la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Ciao cara Barbara. Buonasera. Quindi dicevamo fino a qualche ora fa sembrava che ci fosse una tregua, una visione più o meno concorde tra maggioranza e opposizione, invece oggi di nuovo si è fatta sentire, anche se con toni un po' più moderati, l'opposizione compatta. Salvini, che succede? Qualcuno bussa alla porta? Barbara? No. Ecco, Salvini, Meloni. È il mio Labrador gigantesco. Che abbaia il virus, lo tieni fuori come tu. Come molti italiani, anche io sono in smart working, quindi lavoro da casa. E anche il tuo cagnolone. E allora sentiamo che cosa ha detto anche Salvini a proposito appunto di questa nuova tensione con la maggioranza. Dice l'incontro con Conte ha portato a risultati zero. Tre ore di discussione oggi col presidente Conte, con i suoi ministri, dal mio punto di vista hanno portato a risultati concreti da parte del governo zero o poco più. Ascolto, disponibilità, ringraziamento per le proposte, per la correttezza, per la responsabilità. Mi sembra che sia un momento dove non si richiedono litigi, ma si richiedono proposte e soluzioni, però mi piacerebbe che ogni tanto le proposte venissero anche accolte e concretizzate. Barbara, sentiamoci il ministro della Salute e Speranza sulla 7, scusa se ti... Segnali di miglioramento, fermo. Ad oggi i numeri sono ancora molto complicati, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia, non basta se per 24 ore c'è qualche segnale che è leggermente in controtendenza. Io penso che la situazione sia seria e va trattata come tale. Senta, ministro, ci aspettiamo che... Mi perdoni, noi ci siamo abituati ormai a questi, diciamo, anche a leggere le statistiche, a leggere le curve. Siamo ancora in quella che si dice essere la crescita esponenziale, cioè siamo ancora nella salita che non è arrivata al picco? Sì, c'è una salita ancora molto significativa e quindi sarebbe folle immaginare di abbassare la guardia. Abbiamo bisogno del sostegno pieno dei nostri concittadini, perché questa battaglia non si vince facendo un decreto, facendo una scelta di natura puramente istituzionale, una battaglia che si può vincere solo con il contributo di tutti. Ciascun cittadino del nostro paese con comportamenti corretti può essere protagonista di questa sfida e dobbiamo insieme fare un grande patto tra istituzioni, Repubblica, Governo, Regioni, Comuni e persone che in questa vicenda sono davvero la chiave decisiva per provare ad affrontare, allora, la sfida. Ministro Speranza in diretta sulla 7, Barbara, e da questo punto di vista, quindi, dicevamo, le opposizioni, collega Fratelli d'Italia e Forza Italia e la Giunta Lombarda, in particolare il presidente della Regione Lombardia Fontana e l'assessore alla salute Gallera, chiedono misure più stringenti, cioè chiudere tutti i negozi, tutte le attività che non siano assolutamente indispensabili, essenziali, e addirittura fermare i trasporti. Immagina fermare i trasporti a Milano, no? Sì, ma in realtà, sai, misure più stringenti non è che lo chiedono soltanto l'opposizione e la Lombardia, peraltro... Anche Zaia, presidente della Regione Veneto, l'ha chiesto. Zaia in realtà vuole un ammorbidimento per quanto riguarda la parte vicino Padova, dei comuni vicino Padova. Però ma senti, no, sentiamo questo anche... passaggio, Barbara, senti Zaia che dice chiudere tutto, anche questo audio abbiamo. Non è escluso, e questa è un'idea che sta circolando, e lo dico, prendetela come riflessione, ma non la trovo tanto barbina come riflessione, che piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi, sia meglio ad arrivare a una chiusura totale, ben contingentata, in maniera tale che si possa bloccare il contagio del tutto. C'è anche questa linea di pensiero, immagino che oggi ne parleremo anche nei prossimi giorni, però è fondamentale pensare che noi dobbiamo isolare il virus. In realtà Conte incontrerà domani mattina le opposizioni, Barbara, perché dice valuteremo, in un primo momento il governo aveva detto no, adesso dice valuteremo nelle prossime ore. Sì, appunto, la situazione, come si dice in questi casi, è in evoluzione, ma stavo riferendo anche del fatto che anche dentro la maggioranza c'è una richiesta di misure più stringenti, per esempio il sindaco di Bergamo, Gori, per esempio, esponenti ha fatto chiudere i negozi e i parchi, Gori. Sì, esponenti del Partito Democratico come l'ex portavoce di Gentiloni Sensi, oppure il pentastellato Buffagni, cioè, ma gli stessi governatori. No, cioè oggi De Luca che ha deciso di chiudere barbieri e parrucchieri. Cioè è evidente che come dire, gli amministratori chiedono delle misure più stringenti perché si rendono conto che non riescono, cioè che le persone altrimenti il rischio, come dire, che le persone continuino a circolare e quindi con loro il virus resta molto elevato. Del resto i numeri da un certo punto di vista danno loro ragione, perché se c'è una zona dove i contagi sono diminuiti è la originaria zona rossa, Codogno, quella di come Codogno, no? Sì. Perché in realtà Roberta, la zona rossa non c'è. Noi parliamo di zona arancione, non è stata estesa, le misure che erano state prese a Codogno, dove ha chiuso tutto, tranne appunto esercizi di prima necessità come per la vendita dei generi alimentari o la farmacia, non sono state mai prese adesso con il nuovo decreto. Cioè il nuovo decreto in sostanza è una via di mezzo, appunto è quello che ha esteso in Italia le misure che erano state prese per la Lombardia. Se ti ricordi, sì, tant'è, certo. Tant'è che c'è stato un momento in cui c'era la Lombardia arancione e Codogno che era rimasta l'unica zona rossa, giustamente avevano detto, ma noi ormai non siamo più il focolaio, no? Ormai è tutto un focolaio, quindi non aveva senso avere addirittura a Codogno misure più severe rispetto al resto. Però nonostante questo, i cittadini e le cittadine di Codogno, ho sentito che cercano di mantenere le abitudini cambiate di vita così come sono state durante questa quarantena che hanno passato, no? Perché, certo, dicono siamo arrivati a questo punto, cerchiamo di non smollare troppo adesso. Perché secondo me cambia la percezione del rischio. Il problema qual è? Il problema è proprio questo, abbiamo detto e abbiamo visto anche, come dire, in numerosi servizi televisivi che i giovani non osservano, no? Quelle che sono le, in particolare i giovani non osservano quelle che sono le prescrizioni. Si sentono invulnerabili, immuni. Sì. Il problema è che se non aumenta la percezione di rischio e quindi non si rispettano quelle che sono appunto i divieti, i suggerimenti che arrivano dal governo oppure dalle amministrazioni, la diffusione del virus proseguirà e sarà devastante, perché... No, l'ho detto ieri, siamo come tessere di un domino, se va giù uno vanno giù tutti. Senti, sì. Per quanto riguarda invece, allora intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha detto adesso vedremo di occuparci della flessibilità necessaria che serve all'Italia e a altri paesi europei, perché adesso sta arrivando anche molto in Germania, in Francia, il virus eccetera. Di Maio ha detto sospenderemo mutui e tasse, presto ci sarà il decreto con aiuti a imprese, alle famiglie, cassa integrazione anche per le piccole imprese, e la Ministra del Lavoro Catalfo ha detto ci saranno dei congedi speciali di 12-15 giorni per i lavoratori dipendenti autonomi e si potrà usare in alternativa il voucher babysitter. Un'altra cosa che ha annunciato Di Maio, Barbara, e poi ci salutiamo, è che insieme a mascherine e respiratori polmonari dalla Cina arriveranno anche i medici che si sono specializzati e hanno affrontato per primi l'emergenza coronavirus. Vedremo un po' se cosa ci diranno questi medici cinesi, ci aiuteranno in questa battaglia. Beh, sicuramente la collaborazione in questi casi, cosa che dovrebbe venire anche a livello europeo ed invece ancora non c'è, nel senso che noi siamo la pattuglia che va di avanscoperta, l'Italia rispetto agli altri paesi europei che, come vediamo, si sta pian piano allargando l'epidemia, tant'è che... Insomma, il governo francese è stato coinvolto direttamente, il capo di gabinetto di Macron. Cioè, risultato positivo, e quindi sì, però adesso... ormai mi sembra che la situazione sia evidente. Barbara, quindi... però ti voglio sottoporre, per chiudere, perché siamo in chiusura, un'affermazione della presidente dei Fratelli d'Italia, Meloni, che però ha fatto sua un po' tutto il centrodestra. Pensiamo che serva un commissario straordinario all'emergenza. Non una figura debole, una figura forte che possa in questo momento occuparsi di tutta l'emergenza a 360 gradi, di coordinare, ma che abbia anche dei poteri ordinamentali. Il Presidente del Consiglio ha aperto alla possibilità della nomina di un commissario, ma niente di più, e quindi non possiamo dire che questo accadrà. Barbara, abbiamo 30 secondi. Il nome che ha fatto il centrodestra da ieri è quello di Bertolaso, perché evidentemente, non so, ritengono Borrelli non all'altezza o hanno, insomma, che cos'è, una questione politica? Diciamo che c'è stato un problema oggettivo di comunicazione da parte del governo, nel senso che ogni volta devono precisare, devono spiegare quali sono le misure. E il centrodestra chiede una figura di riferimento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. In questo momento la figura di riferimento non è tanto Borrelli come era ai tempi, che ne so, del terremoto dell'Aquila, oppure ancora prima di quello in Irpinia, in cui nacque praticamente con Zamberletti la protezione civile, no? In cui era la figura centrale più del Premier. Qui la figura centrale resta quella del Premier, che però ovviamente ha anche altre incombenze, quindi ci vuole qualcuno, dice, un super commissario. Va bene, vedremo che decisioni prenderà nelle prossime ore il governo, la maggioranza, quindi insieme all'opposizione. Grazie a Barbara Fiammeri, a ben presto. Buonasera. Ciao cara Barbara, ci prendiamo questa pausa di riflessione, di respiro, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vedo che molti stanno commentando le rassicurazioni di Trump, poi ci collegheremo con gli Stati Uniti, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, per avere a fine giornata un quadro che nessun altro può darvi delle cose più importanti dall'Italia e dall'estero. Roberta Giordano naturalmente sempre a comporlo per voi, e se ascoltate Effetto Notte siete al posto giusto anche perché non dovete essere egoisti, ditelo anche ad amici, parenti, amori e conoscenti in modo che tutti abbiano questo servizio e state a casa a sentire Effetto Notte, mi raccomando, la sera. Adesso ci colleghiamo con l'estero, con alcuni paesi, mettiamo il naso un po' fuori dall'Italia. E ci colleghiamo con, intanto vi ricordo per esempio che in Grecia si è deciso di chiudere scuole e università, anche lì al momento per 2 settimane. In Gran Bretagna i contagiati sono arrivati a quota 373, continua questa graduale accelerazione dell'epidemia anche in Gran Bretagna, sono 54 in più rispetto a ieri. La Francia, vi dicevo poco fa che Air France ferma, ha deciso di fermare i voli per l'Italia fino al 3 aprile. Ci colleghiamo con il nostro Danilo Ceccarelli da Parigi, ciao Danilo. Buonasera. Allora, i casi stanno crescendo anche in Francia, sono a questa sera, vedevo l'ultimo dato, 1784 i casi positivi, 372 in più nelle ultime 24 ore e i decessi sarebbero 33 al momento, Danilo? Esattamente, il presidente Emmanuel Macron al termine di una videoconferenza con gli altri partner europei ha dichiarato che però al momento la Francia non ha bisogno di misure drastiche come quelle adottate dall'Italia. Macron ha poi commentato la decisione presa dalla Slovenia di chiudere il confine con l'Italia definendola sbagliata. Un dato importante che è stato annunciato durante il solito punto stampa quotidiano dal direttore generale della sanità Jérôme Salomon, il 98% dei pazienti che in Francia hanno contratto il Covid-19 è guarito, un dato significativo che si inserisce anche all'interno di una strategia del governo che in questo momento sta anche cercando di rassicurare la popolazione, soprattutto in vista delle prossime, ricordo, elezioni municipali che si terranno questa domenica e quella successiva. Il governo teme un tasso di astensione molto molto alto, ma nonostante questo i casi aumentano anche tra le fila del governo. Ieri il ministro della cultura Franck Riester è stato trovato positivo, oggi il capo gabinetto di Macron Patrick Strodat, un suo collaboratore, sono stati messi in quarantena dopo essere entrati in contatto con una persona positiva, una situazione che ha portato l'Eliseo a rafforzare il cordone di protezione sanitaria per Macron attraverso una serie di misure. Sono state cancellate tutte le riunioni nei suoi uffici, massima attenzione per gli oggetti con cui il presidente entra in contatto quotidianamente come penne, fascicoli o sedie, ecco un pacchetto di misure che tra l'altro si estende anche allo staff presidenziale a cui viene chiesto di fare maggiore attenzione e limitare le uscite in luoghi pubblici come teatro o cinema. Vedo tra l'altro che Macron oggi ha detto fra le varie dichiarazioni in serata: la Francia è pronta, abbiamo giocato d'anticipo, abbiamo equip formidabili, sapremo adattare man mano la risposta. Naturalmente lo auguriamo alla Francia. Grazie Danilo Ceccarelli. Grazie da Parigi. Buonasera. Ciao Danilo. E intanto vedo che la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha assicurato: sosterremo l'economia con ogni mezzo, e mi collego nel frattempo con la Germania, con Isabella Buffacchi del Sole 24 Ore da Berlino. Ciao Isabella. Ciao e buonasera a tutti. Isabella, ho visto che il giornale Bild oggi ha citato la cancelliera Merkel che avrebbe detto il virus infetterà il 60-70% della popolazione. Sì, è vero, è stato riportato, però devo anche dire che al momento qui c'è una Germania più allarmata rispetto ai giorni scorsi, ma ufficialmente il rischio viene considerato moderato per la popolazione. Quindi la Merkel, che c'erano stati nei giorni scorsi giornalisti, commentatori, diciamo, ma come mai la Merkel non ci parla, non ci dice nulla? Quindi oggi in realtà ufficialmente la Merkel ha detto che bisognerà rallentare i contagi, ma saranno attenti a non rallentare l'economia e che non c'è bisogno di grandi stimoli fiscali, di pacchetti, ma semmai di dare liquidità alle imprese. Quindi il messaggio non è stato in realtà di un grande allarme, però ricordo i numeri, sì. Siamo arrivati a 1400 e più contagi, quasi 1500, quindi in un giorno 300, e poi ci sono stati una serie di dati che secondo me hanno cominciato comunque a alzare l'attenzione dell'allarme della popolazione. Prima di tutto adesso abbiamo tutti i Länder tedeschi, 16, con i loro contagi, mentre invece erano 15. Ci sono stati i primi due decessi in Germania, e quindi anche questo. E poi è stato annunciato, e qui c'è stato un po' di dibattito come in Italia, ma qui molto contenuto rispetto a quello che viene fatto adesso in Italia, e cioè la chiusura di eventi con 1000 più partecipanti. Questa è stata prima una raccomandazione, adesso ci sono 5-6 Länder che hanno aderito a questo consiglio da parte di Berlino, no, federale. Qualcuno dice forse dovremmo vietare tra i 500 e i 1000, e domani, ecco, secondo me questo è importante per la Germania, per la popolazione, ci sarà la prima partita del campionato della Serie A della Bundesliga senza spettatori, e questo avrà secondo me un impatto psicologico forte, perché tra le tante cose oggi il presidente di questo, che sta diventando famoso anche in Italia, è l'istituto che si occupa della salute dei cittadini tedeschi ed è specializzato in malattie infettive, che è Robert Koch, e il presidente, che ha detto che il rischio è moderato per la popolazione, ha anche lanciato un messaggio con un tono molto tranquillo: state a casa. Ecco, quindi diciamo questa campagna "io resto a casa, state a casa" sta facendo il giro del mondo un po' come il virus, ma per contrastarlo. Grazie, speriamo che tutti ascoltino anche lì in Germania Isabella Buffacchi. Grazie da Berlino. Ciao Isabella. Grazie a voi, buona serata. Ciao, buon lavoro. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siete al posto giusto se siete a casa e state ascoltando Effetto Notte. Roberta Giordano sempre con voi. Vedo diversi ascoltatori che stanno commentando i dati in Germania dei contagi e dei decessi. Scusate, ma in Germania su 1500 infettati solo 2 decessi, chiede un ascoltatore. Va bene, dice un altro, il modo diverso di fare statistiche, va bene che i tedeschi sono più forti, ma è possibile che ci siano soltanto, insomma, queste sono le notizie che ci riportano dalla Germania. Capiremo meglio nei prossimi giorni. Intanto ci colleghiamo invece con gli Stati Uniti, con il nostro Riccardo Barlam. Ciao Riccardo. Sì, buonasera. Allora Riccardo, scusami, dagli Stati Uniti io direi di farci contagiare non dal virus ma dall'inguaribile ottimismo di Trump. Sì, ti passerà, è malattia, com'è venuta puoi mandarla via. Ha detto oggi Trump: state calmi, il coronavirus se ne andrà. Ha detto così, però il suo capo dello staff, che è appena stato nominato, Mark Meadows, venerdì scorso lo ha nominato e oggi si è messo in auto-isolamento perché ha trovato positivo al virus, e quindi è uno fatto fuori. L'altro è Tom Cruise, che è un senatore repubblicano molto vicino a Trump, e si è messo in auto-isolamento. Trump stesso alla fine gli hanno chiesto di fare il test, perché appunto ha avuto questi contatti con queste persone che sono malate, e quindi lui ha rifiutato, ma insomma lui continua a dire di stare tranquilli, di stare calmi, passerà, ha annunciato tra un'ora e mezza, lo dirà ufficialmente, un taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti e la copertura di chi rimane a casa senza, che hanno, diciamo, i lavoratori che hanno la retribuzione oraria, la copertura in caso di malattia gli copre lo stipendio in qualche modo. E queste sono ottime misure. Senti, invece rispetto... Sono ottime, ma il virus si sta diffondendo, qui sono 800 casi, 200 in più oggi, 29 morti, e c'è la prima zona di contenimento a nord di New York, a New Rochelle, una sinagoga, dove sono stati questo miglio quadrato, ci sono stati più di 100 casi, alcuni di questi sono persone che viaggiano tutti i giorni, che vanno all'università a New York, e quindi c'è molto timore, anche qui tante persone stanno in casa. Bernie Sanders ha annunciato uno dei candidati democratici. Candidati democratici, cancella l'evento che c'è stasera previsto in Ohio, perché appunto per questa emergenza del coronavirus. Oggi si vota in diversi stati, tra cui nello stato di Washington, dove è uno degli stati più colpiti. E l'ultima, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha chiesto agli abitanti di New York di non prendere la metropolitana. Ogni giorno 5 milioni di persone si muovono con la metropolitana di New York. Come faranno a muoversi? In bicicletta? In bicicletta qualcuno, io lo già faccio. Tu sei uno sportivo. O a piedi, davvero lui ha detto di andare in bicicletta o a piedi, o comunque di evitare i luoghi affollati, e c'è molto timore. Oggi sono anche i primi morti nel New Jersey, che è lo stato attaccato a New York, insomma. La sensazione, come diceva quell'ascoltatore sulla Germania, è che qui i casi sono di meno perché non li hanno controllati finora come hanno fatto, come abbiamo fatto in Italia, facendo voi in Italia, direi che è così. Grazie Riccardo Barlam, ciao Riccardo, a presto, ciao. Adesso invece ritorniamo sulle questioni italiane, ma non solo, sullo sport in generale, con Dario Ricci che comincia insomma a prendere provvedimenti, sarebbe anche l'ora. Gli stessi calciatori, credo anche le calciatrici, insomma, in Italia stanno chiedendo col loro sindacato di fermare anche gli allenamenti. Dario, vero? Sì, sì. C'è una serie di notizie su cui è bene focalizzarci per ordine di importanza. Roberta, direi che la prima arriva dalla Francia in questo istante, perché come avrei visto l'attaccante del Paris Saint-Germain, Mbappé, una delle grandi stelle del calcio mondiale, si è sottoposto al test per il coronavirus, lo scrive l'Equipe. Sono due giorni che Mbappé non si allena per un mal di gola, normalmente per un mal di gola, e domani si sapranno i risultati. Perché questo è importante? Vada sì, e lo capiamo tutti, ma anche perché domani c'è in programma a Parigi la sfida tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, che già si disputerà a porte chiuse, ma è ovvio che se Mbappé dovesse risultare positivo, l'intera squadra del Paris Saint-Germain dovrebbe andare in quarantena. Sarebbe il primo caso, con uno dei top team mondiali, che farebbe esplodere quello che diciamo la UEFA finora sta cercando di contenere con assoluta difficoltà. In questo scenario si susseguono le gare a porte chiuse, le gare rinviate, a porte chiuse in campo questa sera anche l'Atalanta Valencia, tra l'altro bergamaschi in vantaggio per 2-1, quindi davvero a un passo in questo scenario da incubo dal loro sogno, cioè il quarto di finale di Champions League. Senti, ma è vero che i tifosi poi si sono tutti ammassati fuori dallo stadio di Valencia? Sì, purtroppo è vero, e chiaramente gli imbecilli. Purtroppo per l'aggettivo, ecco, lo metti tu, ma concordo pienamente. Chiaramente torniamo a discutere di quella percezione del rischio e del pericolo su cui in questi giorni abbiamo speso tante parole, sia nella nostra emittente sia sui social, per cercare di convincere la gente a atteggiamenti responsabili, quelli che invece in questi casi non si vedono. Importante, e vado a chiudere, focalizzare quanto accennavi tu, cioè il consiglio straordinario della Federcalcio di oggi, che di fatto ha recepito chiaramente lo stop del campionato, di tutti i campionati fino al 3 aprile, e ipotizzato anche degli scenari per eventualmente arrivare a finire la stagione. Tra questi potrebbe esserci la cristallizzazione della classifica così com'è, oppure il recupero delle gare che verranno saltate fino al 31 maggio, quindi con uno sconfinamento del campionato oltre le date previste, oppure alla fine anche una soluzione play-off per lo scudetto o il play-out, e insieme ai play-out per le retrocessioni, sempre che il coronavirus ci dia tregua e aumenta la pressione di tutte le federazioni, partire anche da quella italiana, sull'UEFA, per rinviare quell'Euro 2020 che davvero oggi sembra un miraggio poter disputare in condizioni di sicurezza. Grazie Dario Ricci, grazie per tutti questi aggiornamenti anche intorno al mondo dello sport. Intanto, prima di chiudere, due tra i tanti messaggi, testimonianze. Un ascoltatore dice: ciao Roberta, sono nel trasporto pubblico milanese, le linee metropolitane stanno trasportando il 2% forse dell'utenza, dice, a proposito della possibilità o meno di bloccare i trasporti come sta chiedendo il presidente della regione Lombardia Fontana. E poi invece Domenico, camionista, dice: come sempre dei camionisti non parla mai nessuno, siamo in prima linea a garantire i beni di prima necessità ovunque, con tutti i rischi siamo trattati da untori, in più ci negano i servizi minimi di igiene a fine giornata lavorativa, troviamo tutto chiuso e anche digiuni. Mi dispiace caro Domenico, sono varie le categorie un po' a disagio in questo periodo, però pretendete naturalmente che chi vi dà lavoro, vi fa lavorare, vi dia appunto questi minimi servizi di igiene, e per il resto insomma come evitare a fine giornata di trovare tutto chiuso è una risposta che in questo momento non so dare, ognuno cerca di organizzarsi insomma come si può. E adesso ci per forza ci fermiamo qui, è finita la puntata, ma vi aggiorno come sempre brevemente alle 22.